Bramosia di saper il fattapino e d'anelante egli vorrebbe quasi trasformar e non la senza al composo delirio e confine. Mi sobbarco a taescarlo per modo che ci trovi nelle mie reti. Vuoi tu farne scommessa? Nove capone, oro de gioco t'avventurosti, poi morderò nel dolce pomo de vici, che sono redence. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, God, no.

questo suo resto le voce fondo addormentare in placido letargico sotto Thank you. Oh, regno fiero, son del mio regno fiero. Voglio il mondo intero nel pugno mio serrare. Oh, Yeah.